Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, 14:19. Nel 2014 il primo partner commerciale dell'Unione Europea per le esportazioni sono stati Stati Uniti d'America, 15%, mentre per le importazioni la Cina, 14%. Questi i dati diffusi da Eurostat. La Germania invece è il paese leader per gli scambi intra-UE ed è anche il numero uno per l'Italia, sia per l'import, 15%, che per l'export, 13%. Gli altri principali partner commerciali dell'Italia sono la Francia, seconda sia per esportazioni che importazioni, rispettivamente con 11% e 9%. E poi gli Stati Uniti sul fronte export e la Cina su quello import. Si aggrava la terza procedura di infrazione per fognature e depuratori mancanti aperta da Bruxelles contro l'Italia, una procedura che si aggiunge alle due condanne già inflitte dalla Corte Europea per altri due procedimenti. L'esecutivo comunitario evidenzia violazioni sistematiche degli obblighi europei, sollecita l'Italia a migliorare la raccolta e il trattamento delle acque reflue provenienti da numerosi centri urbani di tutto il paese. Erasmo D'Angelis, coordinatore della struttura di missione di Palazzo Chigi, Italia Sicura contro il dissesto idrogeologico per lo sviluppo delle infrastrutture, ribadisce l'impegno del governo italiano per sanare tutte le inadempienze. Lo ha intervistato oggi Maria Luisa Pezzali. Ce la dobbiamo fare, anche se abbiamo alle spalle una bella dormita di almeno 20-25 anni, significa avere sotto infrazione europea qualcosa come 2500 comuni, 1025 aggregati urbani. Ci sono regioni soprattutto del sud, Sicilia, Calabria, Campania, ma ci sono anche regioni del nord più avanzate come la Lombardia, dove 4 lombardi su 10 sono non allacciati a depurazione o a fognatura, così come il Friuli. In Sicilia, Calabria, Campania arriviamo a 6 abitanti su 10. È una situazione che poi si riversa sui nostri corpi idrici, sui fiumi. In effetti abbiamo circa il 40% dei nostri fiumi gravemente inquinati e stiamo intervenendo, perché noi lo vediamo, il legame molto stretto tra contrasto al dissesto, cioè realizzazione di opere come cassi di espansione, vasche di laminazione per ridurre gli effetti di un'alluvione, e il contrasto delle popolazioni, dei sindaci che non vogliono le vasche perché non vogliono far arrivare acqua inquinata dentro le vasche. Il tema delle sanzioni è il tema che ci preoccupa di più, perché nel 2016 scatterà la sentenza europea e noi abbiamo calcolato insieme a Bruxelles 480 milioni di sanzioni l'anno, ogni anno, fino a quando non saremo in regola. In chiave europea l'Italia, per quanto riguarda questo adeguamento infrastrutturale, come si colloca? Siamo i fanalini di coda? Purtroppo sì, siamo i fanalini di coda insieme a pochissimi altri paesi, soprattutto l'est. Questo è un dato che ci deve far riflettere. Calano i rifiuti in Europa, aumenta invece la quota dei materiali di scarto riciclati. Nel 2013 nell'Unione Europea sono stati generati 481 kg di rifiuti comunali pro capite e il 43% di questi è stato riciclato o sottoposto a compostaggio. Lo dicono i dati Eurostat, che segnalano un calo di quasi il 9% rispetto all'anno che ha segnato il picco storico, il 2002. Dal 2007 la quota di rifiuti pro capite ha visto un calo costante, dei 481 kg pro capite sono 470 quelli trattati. La riduzione dei rifiuti del resto va di pari passo all'aumento della quota di materiale riciclato o compostato. Una crescita costante nell'Unione Europea, dal 18% del 1995 al 43% del 2013. Per quanto riguarda i paesi a produrre il minor tasso di rifiuti comunali pro capite con meno di 300 kg sono Romania, Estonia e Polonia, all'opposto la Danimarca 747 kg, poco meglio Lussemburgo, Cipro e Germania con quote al di sopra dei 600 kg. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. È tutto, vi saluta qui Daniele Biacchesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.